Mamma mia che vita si fa. Io che son bambino già culla, passeggino e la nanna, e di dormire non ho nessuna voglia, chissà che gioco che si farà. Poi verrà Natale, si sa, papà pannolino, poi cacca e pigiamino di lana, canzoncine su Dio e le madonnine che canta mamma e tira papà. Chissà da quale parte sta la voce che mi canterà, una su tutte la verità. Che bel ragazzino che c'ha, urla al mercatino un signore stupidino che vende frutta e rompe alla mamma e canta senza vergogna, ma al mercato si fa. E pranzo quasi pronto di già, e dalla radio c'è un signore che canta che se sbaglia un rigore non è grave, che serve più il coraggio, ma penso a quel rigore chissà. Chissà da quale parte sta la voce che ci canterà, una su tutte la verità. Non la dice nessuno, anche se si crede qualcuno, anche se è vestito carino, non ci credo, sarà uno strano scherzo da ragazzino. Ditemi chi è bravo qui al volo, me lo trovo da solo, ci vorrà un po' di tempo, ma c'è tempo. Ma chi avrà ragione, chi parla col boccione, chi fa il piagnucolone di questo pentolone che bolle di sapone. Che strana sensazione, mi sento già migliore a guardare le persone che crescono, e la cosa peggiore è che adesso non ti ho ragione. Di là, che bel regalino sarebbe un fratellino, che dramma, parlerò con la mamma e la convinco che soli molto meglio si sta. E invece mamma il fratellino lo fa, per lui al portone in azzurrino c'è un fiocco e la mammina lo coccola, e con questo episodio si guadagnano l'odio che provavo di già. Chissà da quale parte sta la voce che ci canterà, una su tutte. Si sa, a fare tante domandine, ma se a voi piace il cinema, a me piace saltare, giocare, domandare, sapere tutto e come si fa. Poi mi guardo intorno e ci sta, chi tira solo pugni in pancia, chi porge l'altra guancia, c'è troppa confusione, se fosse una canzone sarebbe un po' stonata, e mi sa che proprio non ci sta la voce che mi canterà, una su tutte la verità.